Ragazzi, per caso qualcuno di voi è Fabbro? Oppure, se non propriamente Fabbro, è stato altrimenti istruito nelle arti metallurgiche prima che le ristrettezze lo costringessero a una vita errabonda? Santo Dio! Che ne dite di collaborare un po'? Scusa, Everett. Bene, gente. Filiamo attraverso quella palude. Aspetta un momento. Chi ti ha eletto capogruppo di questa banda? Vedi, Pete, ritengo che debba essere quello di noi con la maggiore capacità di raziocinio, ma se questa non è l'opinione unanime, diamine, mettiamola ai voti. Mi sta bene. Io voto per il sottoscritto. E anch'io voto per il sottoscritto. Ok. Io sono con voi, ragazzi. Le mie passeggiate, lo sbirro si incanta, lui certe cose non le sa. Ed ecco un enorme piacere che do il buonasera a tutti e tutte ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Wombat, ma in particolare al nostro caro affezionatissimo Coso, che prontamente, come ogni mercoledì alle 19.00, è pronto a scrivere sul pad. Posso solo invitarvi a fare altrettanto: aprite il pad, lo aprite direttamente dalla pagina wombat.blogs.org, da lì potete comunicare in diretta con me, e infatti Coso prontamente ci scrive: che raffinatezza! Esatto, avete sentito l'introduzione, era da un film che mi sono sparato qualche sera fa, per l'ennesima volta direi, con grande, enorme piacere, ma le sorprese non finiscono qua, soprattutto per il buon Coso. Questo è Bricobaldo, naturalmente state ascoltando Radio Wombat Firenze, la radio autogestita che da anni oramai solca l'etere nei dintorni della città di Firenze, ma con lo streaming arriva ben più lontano. Un saluto a tutti e tutte, Emanuele, Valentina, e wow, c'è Cosa che è in love. Io vi lascio a DJ Graf, ci sentiamo fra pochissimo. Lo sbirro si imbianca finché finisce ad imbiancare. Lo sbirro si incarica per farci la carica. Lo sbirro è uno sbirro, lo sbirro deve controllare. Di sotto controllo. Potete scriverci anche alla mail postawombat@insiberia.net. La canzone che sentirete tra poco è una canzone registrata per caso da un gruppo che passava per l'appunto da una delle nostre regie, un gruppo piuttosto fantasioso, assortito in modo piuttosto strambo, ma con un grande talento. Sono i Soggy Bottom Boys. Ancora pochi secondi di J. Graff e poi li potrete sentire in anteprima. Un grande saluto anche a Mario, che aveva calcolato il consueto ritardo, che invece oggi non c'è stato. Sono le 19.05. Soggy Bottom Boys. In constant sorrow all through his day. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my day. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury me in Sunny Valley for many years where I may lay. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Ebbene sì, avete sentito i Soggy Bottom Boys, interessante remix, detta di coso, i cosi sono diventati due sul pad. Chissà se non è un coso virale questo. Comunque, bando alle ciance, andiamo al sodo. Il remix è interessante, si riferisce probabilmente alla selecta musicale. Sarà molto fantasiosa e anche a scelta vostra. Vi tirerò fuori tutta una serie di titoli e poi voi potrete scegliere che cosa sentire. Intanto vi racconto di cosa parleremo oggi in questa diretta. E abbiamo diversi contributi da diverse persone. Fondamentalmente si inizierà parlando dell'asta di beneficenza per i detenuti e le detenute del carcere di Sollicciano e della casa di detenzione Gozzini, che sono in notevole difficoltà per le spese, quelle essenziali, e quindi viene fatta un'asta promossa dalla comunità delle piagge. Infatti sentiremo Don Santoro e sentiremo anche un altro dei promotori di questa iniziativa, che è niente po' di meno che Exit Enter, noto artista fiorentino che da anni ormai si diletta e ci diletta con le sue opere, che possiamo trovare praticamente su quasi tutti i muri fiorentini, con grande gioia fra l'altro. Inoltre avremo un contributo da un medico di base, Alessandro Mereu, un vecchio amico che lavora a Sesto, è una delle persone molto impegnate anche nelle campagne delle quali parlavamo settimana scorsa, del PHC, per un nuovo modello di sistema sanitario che sia territoriale e che coinvolga attivamente la popolazione. Avremo inoltre la voce dall'interno del Consiglio Comunale, Antonella Bundu all'opposizione, e anche dal Consiglio Regionale con Paolo Sarti, anche lui consigliere regionale di opposizione, fra l'altro anche una persona che per tanti anni ha lavorato in ospedale. Ha lavorato in ospedale, è un medico e ha fatto anche diverse... io facevo il volontario con lui in un'associazione, in un'ONG che si chiama Medu, si occupa della salute, del diritto alla salute là in quei contesti dove essa non è garantita, quindi si parla di occupazioni, si parla di situazioni abitative precarie. Ma non solo, era anche proprio una promozione dei concetti di salute e un aiuto nell'accedere a tutti i servizi del Servizio Sanitario Nazionale. Detto questo, oggi è il 29 di aprile, ci avviciniamo a un primo maggio piuttosto inconsueto, visto che siamo tutti costretti nelle nostre abitazioni, ma anche da lì avremo degli aggiornamenti da parte della CUB, i comitati unitari di base, che stanno diramando un comunicato, e ne abbiamo già parlato settimana scorsa con un'intervista, la ritrovate, appunto si preannunciava l'uscita di un comunicato che effettivamente è pubblico, ancora non specifica naturalmente una data per una possibile mobilitazione, però si fa capire molto bene che vi sarà, lo leggeremo in seguito. Cosa posso dire oltre? Non ho aneddoti particolari da raccontarvi riguardo al 29 di aprile. Se ce l'avete, scrivetemeli sul pad. Ricordo, dovete collegarvi su pad.resap.net/p/diretta-wombat-keep. È lì che dove troviamo attualmente ben due cosi e un Mario. Eh sì, due cose e un Mario che comunque... lascia fare. A proposito di coso, se vuole, gliel'ho trovata la canzone che cantava l'altro giorno sul pad. Addio Lugano Bella. Però, intanto... intanto non... non ci arriviamo ancora. Non ci arriviamo. No. Tantissime le novità

Quindi vi invito a partecipare tutti. Se siete artisti e volete partecipare, siamo un po' in ritardo, ma basta che mi scrivete alla mia email exit@gmail.com e vi manderò le informazioni per poter partecipare all'asta con un'opera. E se invece avete qualche soldo da spendere, partecipate a quest'asta, che almeno vi portate a casa un pezzo originale, un pezzo d'artista, e fate anche qualcosa di buono. Vi mando un saluto a tutti gli ascoltatori, un abbraccione e voletevi bene. Ciao belli. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. E questa è una delle innumerevoli iniziative di solidarietà che sono venute fuori a Firenze, e non solo sono venute fuori, ma stanno funzionando molto molto bene. E in questo riponiamo la speranza che possa essere un punto di ripartenza, visto che tante cose non stanno funzionando, ma le reti che si stanno creando, soprattutto quelle dal basso, invece stanno iniziando a rimettere in connessione le persone, per quanto possibile, dalle quarantene, però. Per ora le persone più bisognose, se si parla del carcere, possono trovare iniziative come queste. Abbiamo visto l'asta che citava Exit della CAT, che insomma, si è svolta un paio, 2 o 3 settimane fa, che invece era per gli invisibili, per chi vive in strada. Ma possiamo vedere, ci sono varie mappe che girano sul web, dove si possono trovare i servizi di consegna a domicilio, i banchi alimentari, gli scatoloni, dove chi ha può mettere e chi non ha può prendere. E tutto questo, sono usciti anche articoli di giornale, della stampa ufficiale su questa questione. È una cosa realmente, da una parte emozionante, da una parte almeno per me una grandissima speranza, che anche in una città devastata da ancor prima che dalla pandemia, devastata dall'overtourism e da una distruzione pressoché totale dei rapporti tra le persone. È la speranza che da qui si possa ripartire. Forse davvero è un lavoro che darà i suoi frutti. Nel frattempo, sul pad c'è un delirio: ci sono tipo almeno 7 persone, di cui 3 sono Coso e qua, e gli altri 6 sono Maria, Mario, Maria, Mario. Non ho capito bene cosa sta succedendo. Forse stanno provando a distrarmi anche questa sera. E va bene così: se c'è qualcun altro Coso che si vuole aggiungere, ripeto, lo faccia su pad.riseup.net/p/direttawombat-keep. Qui in sottofondo abbiamo Lindo Ferretti con i CSI and Radio Plays, ma questo ci porta un po' al. Ci accompagnerà al prossimo argomento. Nel frattempo sul pad si leggono i complimenti a Don Santoro. Effettivamente è una persona più che preziosa in una città come questa, e lo ha dimostrato, lo dimostra tutt'oggi, non solo lui, ma tutta la comunità delle piagge che si è creata un po' intorno alla sua persona, intorno alla sua spinta, ma che non è assolutamente rappresentata da lui, perché sono veramente tante tante persone. Si sentiva parlare Marco Tangocci, esistente. Chi sarà questo Marco Tangocci, fra l'altro? Io, boh, non, proprio non lo so, veramente proprio non lo so. Ebbene, abbiamo capito che al coso gli piacciono i CSI, ma Ferretti no. E vabbè, come non capirlo? Sì, ho capito, bene, cioè, questi salti di sponda da una parte all'altra, eh? Però gli artisti ogni tanto cambiano anche opinione, nonostante non sia assolutamente apprezzabile la direzione che ha preso Ferretti. Però, che ci possiamo fare? La musica dei CSI, in particolare questo disco, era Unplugged, bellissimo. Tra l'altro ho anche altri, anche qualcos'altro dei CSI, se volete, ce l'ho pronti. Cosa avevo trovato? Tirato fuori da Etica Amandoti. E basta, forse, avevo tirato fuori solo questa, oltre... Sì, probabilmente sì. Però va bene, siamo a fine di questa canzone, vi lascio un attimo una stacchettina musicale e poi si riparte. Vediamo chi riconosce la prossima canzone. Non si tratta tanto di una canzone quanto di una colonna sonora. Ricchi premi a chi indovina il film. Non lo sapete, ma questa musica baldanzosa ci riporta al Messico dei primi anni del Novecento, con la rivoluzione messicana ritratta nel film Quien Sabe, magicamente interpretato da Gian Maria Volonté. Se non l'avete visto, e non l'avete visto visto che non avete riconosciuto la colonna sonora, perché altrimenti mi avreste scritto, coso è sempre lì pronto sulla tastiera, andatevelo a guardare, merita. Non c'entra niente con quello di cui andremo a parlare fra poco, però mi sentivo, insomma, di mandarvelo, perché quello che tratteremo a brevissimo lo tratteremo insieme a Alessandro Mereo, un medico di base, è un fan, lo abbiamo chiamato per fare all'incirca il punto della situazione da un punto di vista sanitario, almeno per quanto riguarda i medici di base. Ma quindi non sarà un pippone lungo come quello dell'altra volta sulla questione sanitaria. Semplicemente, oltre Alessandro Mereu, ci tengo a portare all'attenzione un articolo che è comparso su Salute Internazionale, ancora la solita fonte, scritto da Maddalena Innocenti, Chiara Milani, Anna Maria Schimpa e Gavino Maciocco, il buon Gavino. Fondamentalmente si intitola "Chi traccerà i contagi? L'Italia rischia di trovarsi impreparata di fronte a un possibile seconda ondata dell'epidemia. C'è un'alternativa a un'app partita male e priva di garanzie? Il tracciamento vecchia maniera fatto con le persone." Vediamo, abbiamo visto il dibattito che nelle ultime settimane ha veramente galoppato su qualsiasi... negli ultimi giorni, via, negli ultimi, sì, 10 giorni ha galoppato su tutte le fonti di informazione. Questa famosa applicazione, no? Per gli smartphone, che fondamentalmente luci e ombre, però uno, come faceva notare Grippo, è una grande vittoria per chi non utilizza gli smartphone, per chi ancora utilizza i telefoni analogici. Questo è veramente, cioè, qui da oggi in poi, ancora più di prima, potremmo dirvi: ah, noi ve l'avevamo detto, buttatevi gli smartphone, oppure quantomeno magari questo porterà a far sì che le persone lo lascino a casa, lo smartphone. Comunque io rilancio per tornare al telefono analogico, se non addirittura al telefono fisso. Comunque il punto non è questo, perché come dicono loro, fondamentalmente partono dai bisogni, cioè perché c'è bisogno di una cosa del genere. Fondamentalmente serve per un'inchiesta epidemiologica, che è da sempre la misura fondamentale per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, va bene? Che comprende, va bene, la diagnosi di un caso comporta una serie ben nota di interventi. 1. La ricerca della fonte di infezione, l'identificazione di altri soggetti che contemporaneamente potrebbero essere stati esposti al rischio. 2. L'identificazione dei conviventi e dei contatti sociali, ovvero i soggetti che hanno avuto rapporti con il malato tale da consentirne il contagio. 3. La sorveglianza attiva sui soggetti del punto 2, che può comportare, a seconda delle infezioni, l'accertamento diagnostico, l'isolamento, il follow-up. Queste misure, l'ABC dell'igiene e della sanità pubblica, sono state di fatto ignorate nel corso della pandemia, tanto in Italia quanto anche all'estero. Ora ci si prepara alla fase 2, quando con la ripresa della vita sociale e delle attività produttive si potrebbe verificare una seconda ondata dell'epidemia, se il sistema sanitario non si attrezza per prevenire l'esplosione di focolai incontrollati di infezione. Per realizzare il tracciamento dei contatti, il Ministero della Salute ha puntato finora sul modello sudcoreano, che ne parlavamo l'altro giorno. È un po' strano, perché comunque sì, hanno risolto velocemente, ma hanno avuto un'epidemia da pochissimi anni, quindi è un po' un altro discorso, c'era già un altro tipo di cultura nell'affrontare queste cose. Comunque l'app si chiamerà Immuni, l'app italiana per il tracciamento dei contagi del nuovo coronavirus durante la fase 2. Loro spiegano, fondamentalmente fanno notare, che il sito del Ministero della Salute spiega in maniera molto molto stringata il funzionamento del sistema. Dicono semplicemente: i cittadini scaricano l'app, iniziano a utilizzare l'applicazione che crea un registro dei contatti in cui ci sono tre informazioni: cos'è il dispositivo con quale sono stato con il quale sono stato in contatto, a che distanza e per quanto tempo, a seconda di questo ti dà un grado di rischio e via discorrendo. Però fondamentalmente si è un po' scatenato il panico all'uscita di queste notizie, perché tante persone giustamente si sentono anche violati sotto tanti punti di vista. Ma io penso che non sia questo il punto, e lo vedremo in seguito. Le questioni della privacy, la sicurezza nazionale, dicono loro, e via discorrendo. Forse la pecca più grossa è il fatto che per essere efficaci questi strumenti devono avere una diffusione molto ampia, circa il 70% della popolazione, altrimenti sono veramente inutili, e questo è una cosa molto molto difficile in un paese come l'Italia. Meno lo è stato in Asia, però c'era un altro approccio alla tecnologia. Però fondamentalmente la domanda vera è: ma davvero è l'unica opzione questa qua, del contact tracing, solo l'app? E loro dicono: ma certo che no, assolutamente no, anzi. E portano tre esempi di paesi che hanno fatto, che si sono mossi in modo veramente molto molto diverso. Fondamentalmente hanno fatto un tracciamento alla vecchia. Tracciamento alla vecchia significa alle persone. E sono stati il Massachusetts, bene? I paesi asiatici hanno investito pesantemente nel metodo digitale del contact tracing, che usa la tecnologia per avvisare le persone quando queste sono state esposte al coronavirus. Il Massachusetts invece sta usando il mezzo vecchia maniera, le persone. Ha fatto questa scelta perché, a seguito di un lungo articolo su New York Times, dicono che la sorveglianza digitale è vissuta da molti americani come un'insopportabile intrusione. Il Massachusetts è il primo stato USA a investire in un ambizioso progetto di contract tracing con un budget di 44 milioni di dollari e l'assunzione di 1000 operatori. Questi 1000 operatori saranno gestiti attraverso un ONG, si chiama Partner in Health, che è un'organizzazione con una vasta esperienza internazionale in paesi poveri e in situazioni epidemiche, hanno già affrontato l'Ebola, lo Zika, il colera. Il tracciamento del contatto avverrà attraverso intervista telefonica one-to-one dei casi diagnosticati. Quindi il paziente positivo al test sarà contattato entro 2 ore dal case investigator, che lo aiuterà a compilare un elenco di soggetti con cui è stato in contatto dalle 48 ore dall'inizio dei sintomi. I nomi dei contatti, la previsione è di circa 10 per caso, saranno passati al contact tracers, che avvieranno interviste telefoniche ripetute per conoscere non solo l'eventuale insorgenza di sintomi, la loro evoluzione, ma anche le possibili difficoltà nell'attuazione della quarantena. In tal caso l'organizzazione interverrà con supporti alimentari, abitativi, e secondo il direttore del programma, il medico antropologo Paul Farmer, nessun intervento di aiuto, per essere efficace, può prescindere da un rapporto umano, da un rapporto di fiducia che nessuna tecnologia può sostituire. Questo è il punto, esattamente. E è un punto che si ritrova tanto nella gestione di una emergenza sanitaria, quanto invece nella gestione della normalità sanitaria. Abbiamo visto anche nei mercoledì precedenti tutta la questione della salute globale. Fondamentalmente si basano tutti su dei rapporti umani fra le persone che si conoscono, si fidano l'una dell'altra, e da questo possono attivare un rapporto di cura, va bene? Di prendersi cura l'uno dell'altra. Questa cosa non succede solo lì, succede anche in Irlanda. In Irlanda, ad esempio, la questione è un po' diversa, sicuramente perché i livelli di contagi sono molto contenuti, ma anche gli abitanti sono solo 5 milioni, i contagiati sono circa 15.000. Però loro, ad esempio, hanno fatto un'altra cosa. Hanno sì utilizzato le persone per andare a ricercare i casi positivi o possibili positivi, ma queste persone le hanno arruolate dal settore pubblico. Quindi erano già lavoratori nel pubblico, con sicuramente una riduzione del lavoro, del carico di lavoro in altri settori, visto che alcuni sono stati chiusi, e quindi allora hanno pensato di mettere sulla più grande mobilitazione e il più grande esercizio di riconversione occupazionale della storia irlandese. Inoltre anche il Regno Unito si è attivato in questo senso, e appunto per la realizzazione di un programma d'emergenza su larga scala per fornire operatori sanitari di comunità, community health workers, con il compito di supportare le persone più vulnerabili, auspicando la possibilità di estendere tale modello di assistenza proattiva, incluso il contact tracing, a tutta la popolazione del Regno Unito. Quindi, in futuro tali operatori potrebbero essere coinvolti nell'analisi dei bisogni della salute della comunità, nel rafforzare la comunicazione e la capillarità degli interventi durante le campagne vaccinali, nel contribuire a gestire le condizioni croniche. In conclusione, le conclusioni che traggono loro, Gavino Maciocco & Co. da Salute Internazionale, sono: se nella fase 1 della pandemia sono stati commessi gravi errori con gravi conseguenze, in parte giustificati dall'enorme inaspettata dimensione dell'attacco viremico, nell'ormai prossima fase 2 tali errori non sono ammissibili, come quello di trovarsi impreparati di fronte a una possibile, per alcuni molto probabile, seconda ondata di epidemie. La scelta del modello asiatico per il contact tracing, senza mettere in campo una soluzione B, quale potrebbe essere quella di un sistema manuale gestito dai servizi territoriali e dai medici di famiglia, desta non poche preoccupazioni, visto l'avvio così incerto e problematico dell'operazione. Se mi chiedi se un sistema di tracciamento dei contatti Bluetooth è implementato o in fase di sviluppo in qualsiasi parte del mondo è pronto a sostituire un contact tracing manuale, dirò che la risposta è no. Non ora e neanche per il prossimo futuro. Quindi questo ci aiuta un po' a chiarirci le idee.

abbiamo sentito Petra Magoni e Ferruccio Spinetti che con la sola voce e il solo suono di un contrabbasso riescono a riempire i cuori delle persone che lo ascoltano. E questi invece sono in Buena Vista Social Club e ci introducono un po' al prossimo argomento. Prossimo argomento incentrato su Firenze e sulla Toscana. Come avevo preannunciato, mi è arrivato un comunicato stampa da parte della CUB che titola Ogni giorno il primo maggio. Non ripartiamo tutti sulla stessa barca. Fa un po' un prologo dove dice che la pandemia del Covid-19 ci ha tolto anche la possibilità di organizzare la giornata internazionale di lavoratrici e lavoratori del primo maggio. Un momento di festa ma soprattutto di lotta che organizzeremo a fine quarantena per denunciare le problematiche del lavoro urgenti e gravose ma anche l'abuso dell'emergenza di coronavirus. Nell'emergenza di coronavirus, di decreti e di DPCM da parte del governo Conte, che ha sospeso i fondamenti costituzionali della Repubblica parlamentare e anche una pericolosa deriva e sancito una pericolosa deriva autoritaria. La pandemia ha soprattutto evidenziato il conflitto tra profitto e sicurezza, dove Confindustria ha esercitato continue pressioni sul governo per limitare i blocchi produttivi, ha favorito la riapertura in deroga, con autocertificazione ma senza nessun controllo, e adesso freme per la riapertura totale delle aziende. Una fretta che è sostenuta con passione anche dalle istituzioni locali, in particolare del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Per contro, promettono di essere ancora stringenti le misure di limitazione delle libertà personali e civili. Cedere alle pressioni degli industriali mentre perdura un alto rischio di contagio sui posti di lavoro è segno di come le istituzioni siano subalterne al capitale. La ripartenza del 4 maggio ci lascia perplessi sulle reali possibilità di attuare distanziamenti, fornire DPC idonei, rimodulare l'organizzazione del lavoro in modo da garantire la sicurezza di chi lavora. Troppi sono stati morti in tutti i settori lavorativi, mentre come nelle poste, nei trasporti, nell'industria, nei call centers, nei servizi, una mancanza che ha colpito con ferocia la sanità sia nel comparto ospedaliero che territoriale, sia nelle residenze protette per anziani e disabili, dove sono caduti in centinaia tra medici, infermieri, tecnici, lavoratori degli appalti, spesso stranieri e a basso reddito, alla faccia delle ipocrisie, delle ipocrite celebrazioni degli eroi di questi giorni. Una strage colpevole, come dimostra la ridicola equiparazione del decreto governativo Cura Italia delle mascherine chirurgiche a DPI, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori, regole condivise e ribadite in Toscana anche con le ultime ordinanze del presidente del Consiglio regionale Rossi. Tale carenza di sicurezza per chi lavora ha generato un'ondata di proteste e di scioperi in tutta Italia che sono stati ostacolati e bloccati dal governo, un vile attacco al diritto di sciopero che non sarà dimenticato. Inoltre, sia prima che durante l'emergenza, sono stati copiosi anche in Toscana i soprusi contro i divieti dei lavoratori. Basta pensare alle vertenze Bekaert, Piaggio, Panorama, dove il cinismo delle multinazionali umilia il futuro di centinaia di persone, ma anche a episodi emblematici come il licenziamento arbitrario di tre giovani lavoratori della cioccolateria Venchi di Firenze, come la mancata riassunzione di apprendisti in Trenitalia, come il licenziamento repressivo del panificio toscano a Prato, o come l'ignobile licenziamento da parte di AFI, che è una cooperativa in appalto di Alia, di un lavoratore dell'igiene ambientale che aveva denunciato l'insufficienza di DPI nella pandemia, come alla condizione di sfruttamento di migliaia di lavoratori impiegati nel sistema degli appalti e subappalti con stipendi da fame. Si aggiunge la vasta platea dei precari, di cui fanno parte spesso anche partite IVA e artigiani, e la massa di disoccupati ormai drammaticamente ampia anche nel sistema economico toscano. Inoltre, Tra le fasce meno abbienti sono tante le persone senza residenza che rischiano la vita perché per effetto della normativa attuale non possono accedere al medico di base né a, nessuna forma di sostegno o aiuto economico dall'istituzione. Una condizione grave che rischia il collasso con la sofferenza di settori portanti dell'economia regionale come il commercio e il turismo. Sono pertanto urgenti misure di contenimento del dramma sociale come la cassa integrazione al 100% del salario e il reddito di quarantena di 1.200 euro per chi è senza stipendio, ammortizzatori sociali ben più significativi delle elemosine previste dal governo, peraltro soggette al filtro burocratico dei comuni. Vergognosa è inoltre la decisione del governo Conte di continuare a produrre aerei da guerra F-35, il cui costo singolo è pari a 7.113 respiratori polmonari. In ogni modo, le misure emergenziali dovranno lasciare poi il passo a una discussione ampia sui modelli economici e sulla distribuzione della ricchezza e del lavoro, unica vera soluzione dell'iniquità del sistema. È necessario colpire i grandi patrimoni e parallelamente ridurre l'orario di lavoro a parità di stipendio, lavorare meno per lavorare tutti. Rileviamo anche l'aggravamento dell'emergenza abitativa, già drammatica nella nostra regione e che diviene insostenibile con la crisi economica, soprattutto se riprenderà la cinica esecuzione degli sfratti che hanno colpito duramente nei mesi precedenti all'emergenza anche famiglie disagiate o momentaneamente insolventi. Per questo ci batteremo per una moratoria a tempo indeterminato degli sfratti per gli indigenti e i morosi incolpevoli. Va sottolineato che sono tante le iniziative importanti che in questa primavera non hanno avuto luogo a causa dei decreti di quarantena. L'8 marzo, come emblema della parità di genere anche sul posto di lavoro, nella denuncia della violenza delle donne e del patriarcato, il 25 aprile come celebrazione della resistenza antifascista e della liberazione dal nazifascismo, le manifestazioni per la tutela del territorio, in particolare contro l'inceneritore, aeroporto e TAV, quelle studentesche dei Friday for Future per la tutela dell'ambiente e del clima. Sono inoltre state rimandate diverse iniziative contro le guerre imperialiste che non si sono affatto fermate per la pandemia e che continuano a massacrare milioni di innocenti nel mondo. Il primo maggio è per noi sintesi di tutto questo, come presa di coscienza e lotta contro un sistema capitalista brutale e vigliacco, con il suo carico di privatizzazioni, tagli ai servizi e sfruttamento selvaggio di risorse e persone. Per questo, come Assemblea Unitaria per il primo maggio a Firenze, che riunisce i sindacati di base di Firenze e molte organizzazioni politiche e sociali della città, ci impegneremo per organizzare con la massima sicurezza un percorso di mobilitazione unitaria che riunisca le vertenze del lavoro con quelle ambientaliste, quelle femministe, quelle contro la guerra, per l'autodeterminazione, la libertà e i diritti del popolo, quelle antifasciste, quelle di difesa dei beni comuni, quelle per il diritto alla casa e all'abitare, quelle per il diritto all'istruzione e per qualità e universalità della scuola, per la tutela del territorio, in particolare contro inceneritore, discariche, aeroporti e TAV. Non di meno, controlleremo con accuratezza le reali tutele per lavoratori e lavoratrici e ci difenderemo con azioni di lotta sindacale e scioperi, rivendicando il diritto al lavoro sicuro, alla salute e a una sanità pubblica ed efficace. Una battaglia che abbiamo iniziato in modo coeso e solidale e che proseguirà con determinazione, perché per noi ogni giorno è il primo maggio. Assemblea Unitaria per il primo maggio a Firenze. Andiamo subito all'intervista. Buonasera, Antonella Bundu, nei microfoni di Radio Wombat. Buonasera a tutte e tutti. Allora, questi mesi convulsi, l'attività del comune, i consigli comunali sono

Ci sono diverse questioni anche chiaramente per quel che riguarda la, proprio la libertà di espressione, la libertà di manifestare tutto, che andrebbero poste e affrontate al più presto, ecco. Bene, allora noi naturalmente speriamo che le forze di opposizione siano ferme nel porre queste problematiche, magari neanche nel suggerire delle soluzioni. Con questo direi che ci possiamo fermare per ora e magari ci risentiamo in seguito. Grazie. Grazie a te, buonasera. Antonella. Buonasera. Buonasera. Anche le foche bevono Radio Wombat. Cielo che al soffitto ho dipinto in alto lassù e sul muro c'è un mare così calmo e tranquillo e sicuro di più e non si può affogare sotto l'acqua della doccia che scende giù e fa il suono di onda stereo sembra quasi come stare in mezzo all'oceano. Inside. Siamo i poeti. E abbiamo sentito la soluzione di Bobo Rondelli per affrontare l'estate in fase 2. Fondamentalmente facciamoci una spiaggia in casa, così potremo evitare i fastidiosissimi box che saranno installati sulle spiagge di tutta Italia. E abbiamo sentito Antonella Bundu sulle questioni che riguardano il comune, il consiglio comunale, un po' le proposte portate dall'opposizione, il reperimento di nuovi fondi e via discorrendo. Siamo convinti che ora ancora più che prima serva un'opposizione ferma, ferrea e anche preparata per fronteggiare quello che il sindaco di Firenze chiama il rinascimento della città. Eh sì, questo nuovo rinascimento prospettato da Dario Leonardella, che qualche settimana fa se ne è uscito con questi termini da guerrafondaio, un bazooka urbanistico per disegnare la città post pandemia. Va rivisto tutte le infrastrutture che sono in costruzione, dalla tranvia alle altre cose, ma gli alberghi fondamentalmente non vanno più di moda, non gli vanno più giù, e quindi ora si punta su high tech ricerca. Sta tirando su un team con un botto di esperti, ma giustamente e prontamente gli fa notare Budini Gattai il giorno dopo, con una lettera a Repubblica, che nel suo team non ci sono urbanisti. Ora, questa non è una notizia nuova, non ha mai goduto di una grande simpatia. Di fatto gli interventi urbanistici effettuati negli ultimi anni sono delle cose che fanno piangere anche l'Ordine degli Architetti, e sappiamo bene che l'Ordine degli Architetti, insomma, non è che sia proprio un'avanguardia, però diciamo, questa è veramente preoccupante, perché sì, si prospetta un rinascimento, ma un rinascimento sembra un termine molto retorico, cosa anch'essa non nuova. E fra l'altro il piano per il rinascimento fiorentino già c'era, era stato presentato, arrivava fino al 2030 e fra l'altro era scaricabile da internet, e è un piano di media lunga portata, conteneva fondamentalmente pochi punti, anche un po' approfonditi, ma un po' agghiaccianti. Io me lo sono letto e sì. Comunque, riguardo al comune, un'altra notizia che dobbiamo assolutamente dare è quella della sperata riapertura del mercato contadino in Oltrarno, il mercato contadino diciamo ufficialmente tenuto dall'associazione Altrarno, che si svolgeva tutti i venerdì in Piazza Tasso, non più da quando le piazze... i giardini, per meglio dire, sono stati dichiarati chiusi e non agibili, e quindi il mercato si è dovuto spostare in Piazza del Carmine, e poi è stato sospeso da almeno 3 settimane in seguito a determinate polemiche. Ora, noi non stiamo a giudicare cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto, stiamo però a dire che i mercati contadini hanno un'importanza veramente enorme per la popolazione, per l'economia della città e dei dintorni della città, soprattutto perché sono quegli strumenti che permettono, come si diceva prima, no? Di creare un rapporto tra chi mangia e chi produce. È un rapporto poi sul quale si basa un po' tutto quello che deve essere il Rinascimento fiorentino. Sono state tante le richieste, vi è girato anche un appello, c'è una lettera che è stata diciamo diramata da Genuino Clandestino, indirizzata al sindaco Dario Nardella, all'assessore Giorgetti, se non mi sbaglio, e al presidente del quartiere 1, il nostro compagno Sguanci, e stanno anche iniziando a uscire un po' di articoli sul giornale, perché insomma la necessità è reale. L'Oltrarno ha finalmente, da qualche anno, aveva un mercato genuino, con prodotti sani, prodotti buoni, un mercato che va a stroncare, va a cercare di uscire dalle logiche della grande distribuzione, e quindi ora, ancora più di prima, ci sembra veramente, veramente assurdo non permettere lo svolgimento di tale mercato. Quindi grande solidarietà ai compagni e alle compagne di Genuino Clandestino. E questo, io forse vi mando un altro pezzo prima di sentire l'ultima intervista a Paolo Sarti, che è un consigliere regionale di opposizione. Non so cosa volete sentire. Qui davanti ho diverse robe, si va di nuovo CSI volendo, Parco Sempione, Addio Ligano Bella. Abbiamo di nuovo Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Abbiamo il Quartetto Cetra, per chi non lo conosce, non lo so. Ditemi voi, scrivetemi sul pad. Allora, il sottofondo era Vecchioni, la corazzata Potionchi, dall'album Il bandolero stanco. Va bene, vogliono Lugano Bella e direi che Coso lo accontentiamo nella versione, addirittura, nella versione con Iannacci, Gaber, via discorrendo. Bellissima. Ho provato già i testi. Il testo di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, Addio Lugano Bella, l'abbiamo già fatta anche in Cazzo Femminile, e facciamo la bella. Addio Lugano Bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore, eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, e questa la vendetta che noi vi domandiamo, e questa è la vendetta che noi vi domandiamo. Ma tu che ci riscacci con una vil menzogna, Repubblica Borghese, un dì ne avrai vergogna, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Scacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Helvezia è il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi,

subito dopo, quindi alle 13, abbiamo il radio giornale di Radio Spore. Attenzione, attenzione, questo è un radiogiornale fatto in collaborazione con altre due radio libere, sorelle di Radio Wombat, che sono esattamente Radio Spore da Bologna e Radiogramma da Genova. Importantissimo seguirle, sono le prove di una rete di radio che vanno tutte sulla 13.59 AM. Domani sera inoltre avremo l'Urlo dei Balcani alle 17, la diretta speciale alle 19, 8 Hertz alle 21.15, poi Racconti di quasi mezzanotte, Coccoli al Siricio. Io direi che qui vi lascio, non prima però di aver mandato un ultimo pezzo, che come... Ciao, intanto saluto chi mi scrive sul pad, saluto anche ascoltatrici e ascoltatori, Emanuele, Valentina, Mario, Coso, Cosa, Maria, Mario di nuovo, Maria, Mario, Cosa, Coso. Tantissime e tantissime, vi lascio saltando ancora più indietro nel tempo, chissà se l'avete mai sentita questa qua. Un saluto da Bricco Baldo, questo è il Quartetto Cetra. Lui mi vuol bene, tanto tanto bene, mi porta a spasso tutti i venerdì, giunti nel parco dove c'è il laghetto, lui comincia a stringermi, a baciarmi con passione. Ma quando siete sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardarvi sotto, spera sempre che tu cada giù. Però mi vuole bene, tanto bene. Però mi vuole bene, tanto bene. Mi vuole tanto bene, tanto bene. Bene da morire. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Nel nostro nido noi viviamo felici, lui mi corteggia il primo dì, sempre gentile, sempre innamorato, lui continua a stringermi, a baciarmi con passione. Ma se ti lascia sola sola in casa, il tuo tesoro vuoi saper che fa? Dopo aver chiuso tutte le finestre, in cucina lascia aperto il gas. Però mi vuole bene, tanto bene. Però mi vuole bene, tanto bene. Mi vuole tanto bene, tanto bene. Bene da morire. La la la la la la la la la la la la la la. Per festeggiare il mio compleanno siamo a Parigi, che felicità! E a Plastigallo sotto i cieli bici, lui vuol sempre stringermi e baciarmi con passione. Ma stai attenta, or ti vuol portare sulla terrazza della Torre Eiffel. Vuol dire cosa c'è di male se mi porta sulla Torre Eiffel? Ma le voleva bene, tanto bene. Ma le voleva bene, ma le voleva bene. Bene d'amore. La la la la la la la la la la la. Bene d'amore. Devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza. Thank you.